ritorno in diretta sui 103.1 dopo la linea al GR di Radio Popolare, vigilia di weekend, venerdì 19 gennaio 2024 ovviamente, e procede anche nell'anno corrente la collaborazione tra diversi palcoscenici, direi quasi tutti, non solo in città ma anche in zone più periferiche, in regione, quello che è una rubrica che dà spazio a, indifferentemente voglio dire, per quanto riguarda l'aspetto di diffusione, grandezza, l'importante è l'entusiasmo, la volontà di portare in scena. E il teatro ridotto, a dispetto del termine, è qualcosa che fa rumore. Rumore è la parola filo conduttore per questo inizio di 2024. Siamo a Lavino di Mezzo, già abbiamo avuto quello che è stato una primissima presentazione con un voltiamo pagina e una biblioteca legata al teatro ridotto, stagione teatrale 2024, l'urlo silenzioso di una società dominata dal caos. Tutto si genera, tutto si distrugge in tempi brevissimi. Gli eventi a cui quotidianamente siamo assoggettati inizialmente fanno scalpore, ma poco dopo ci lasciano indifferenti e precipitano nel dimenticatoio, nell'oblio. Il caos può avere anche un'accezione positiva e sintomo di energia, di forza che, incanalata come nell'arte, nel teatro, nella danza, può produrre effetti importanti e rinnovarsi così già noto ciò che già esiste in altre forme, cioè trasformarsi. Iniziamo allora la nostra conversazione per quanto riguarda teatro ridotto con Lina Della Rocca, che ne è direttrice artistica. Entriamo nel programma e linee generali per questo inizio stagione. Sentiamo appunto le sue parole. Il programma ha un titolo ed è Rumore. Rumore inteso come tutto quello che sta succedendo nel mondo e quindi come tutto quello che può succedere dentro ognuno di noi. Quindi a questo punto ho cercato di mettere in fila alcuni spettacoli che avessero in qualche modo a che fare con i rumori del nostro teatro e con il mondo. Il primo spettacolo che debutterà il giorno 20 di questo mese è Allegro, quindi con il famosissimo Sergio Bustrick in arte, e quindi Sergio Bini. Sabato 20, e lui ci manda queste righe: il circo delle pulci del professor Bustrick, dove teatro comico e dell'assurdo si uniscono in uno spettacolo brillante e ricco di episodi sorprendenti. Lo conosco da molti anni, è conosciuto da molti anni nell'ambito dell'arte ma anche della magia, perché lui ha studiato a Bologna come mago, col famoso mago Sitta, che purtroppo non c'è più. E seguiamo il 25 gennaio con un altro evento importantissimo sia a livello di letteratura teatrale e di storia del terzo teatro. Marco De Marinis presenta il suo ultimo libro ed è accompagnato appunto da Mario Biergini, che è uno degli attori che ha seguito Grotowski per molti anni. Questo sarà il 25 gennaio. Seguirà un altro spettacolo, sempre per sdrammatizzare quello che ho detto prima, Opera Prima Teatro, che vengono da Latina, un gruppo storico di Latina, e presentano Zanni, Zanotto e Covello Zanni, tra lazzi, tirate comiche e tante gioie. Cantaride, un'associazione ben affermata qui a Bologna, metteranno in scena I figli del vento, un dialogo tra prosa, poesia, note di tango, flamenco, cultura, gipsy e le atmosfere del romanzero gitano di Federico García Lorca, con Elena Galeotti e Riccardo Marchi e Simone Marcandelli, che sono due musicisti che seguono l'attrice in diverse esperienze. Dopo di nuovo Gli amici di Luca, tra parentesi Casa dei risvegli, già l'anno scorso abbiamo avuto l'onore di portarli al Teatro Ridotto e insomma di elaborare un laboratorio molto interessante con persone che sono uscite ed escono dal coma ma che hanno tanta vita e tante abilità nella loro disabilità. Questo coinvolge più gruppi, che sono appunto il Teatro Nucleo, Teatro Ridotto ovviamente, Compagnia Legami e Omar Bortolacelli, una persona persona che è uscita dal coma dopo un incidente molto molto importante che l'ha lasciato sulla sedia a rotelle, ma lui con tutte le forze che è riuscito a recuperare e anche più di quelle di prima continua la sua vita. Teatro Ridotto è a Lavino di Mezzo e quindi siamo nella zona periferica di Bologna e che si può raggiungere con gli autobus. Stagione 2024 per Teatro Ridotto, da quello che abbiamo intuito, vuole favorire un dialogo che porta linguaggi performativi fiorenti. Come ho detto, il teatro, come altre discipline, direi che è un po' la madre delle discipline, il teatro, oltre che essere con caratteristiche che ben conosciamo, ha anche la capacità di promuovere tutto ciò in maniera, a dispetto del nome, tutt'altro che ridotto. La rubrica In Scena, esistente da 10 anni oramai, abbiamo iniziato con Eugenio Maria Bortolini, poi con Ilaria Cecchinato, per dare spazio il più possibile, indipendentemente da caratteristiche, realtà, situazioni logistiche, ma dare voce e spazio sempre e comunque per il teatro. Teatro Ridotto, come ho detto, l'entusiasmo e la capacità di portare una stagione prolungata e piena. Si inizia domani, 20 gennaio, con il volto noto al teatro e al cinema di Sergio Bustrich in Il Circo delle Pulci del professor Bustrich. Teatro Comico e dell'Assurdo si uniscono per questo spettacolo che sarà appunto a Teatro Ridotto a Lavino di Mezzo per la giornata di domani. Procediamo nella nostra conversazione. Lina Della Rocca ha voluto sottolineare alcune produzioni. Sottolineo subito un appuntamento con il Teatro Ridotto, con una nuova produzione, Il Soldato e la Rosa. Questo è uno spettacolo ispirato alla donna, alle difficoltà della donna, e ci siamo ispirati a Elsa Morante. Ma non parliamo di lei, parliamo della donna Elsa. E quindi stiamo parlando del senso dell'abbandono, il recupero della speranza per colmare il vuoto che l'abbandono può creare in ognuno di noi, soprattutto nei bambini che vengono allontanati da casa per il loro bene, ma questo ai bambini crea comunque un vuoto dentro e quindi siamo andati avanti con queste sensazioni. Il soldato perché la forza della donna e la rosa perché il rosa è il colore che ci accompagna, almeno quelli della nostra generazione, che io ne ho quasi 70, da questo obbligo quasi di vestirci di rosa, i bambini si vestono di rosa, tutto è rosa. In realtà il rosa è speranza e io l'ho voluta leggere come speranza. E poi c'è Iben Nagel Rasmussen, la mia famosa maestra, che attualmente fa parte del Nordisk Theater Laboratorium. Il 27 di aprile presenta I coralli della memoria. Lei è una storica attrice dell'Odin Theater da 57 anni e lo spettacolo ruota attorno al fantasma di Edipo. Ci sono anche possibilità di seguire in rete o con il digitale tutto ciò? Ma non siamo ancora preparati mentalmente meglio a questo tipo di presentazione, perché abbiamo lavorato una vita, almeno io, e parlo della mia maestra e dei miei colleghi, e sto abituando anche la mia nuova attrice che sarà appunto la protagonista di questo spettacolo, e lei si chiama Antonella De Francesco. Penso che c'è ancora tempo per arrivare a... Io ho già anticipato un pochettino questa conversazione, però con la letteratura o in genere con una biblioteca. La biblioteca nasce da un bisogno di rendere, di conservare il ricordo di un attore, Torge Wedel, che è appunto stato attore dell'Odin per moltissimi anni, è andato via con una malattia. Noi siamo molto legati all'Odin e quindi anche a questo attore, e abbiamo voluto in quel momento che qualcosa ci restasse, e siccome lui non aveva mai scritto un libro, abbiamo voluto contrastare questa cosa pensando a una biblioteca. Abbiamo coinvolto quindi biblioteche di tutto il mondo, quindi abbiamo raccolto gratuitamente libri da tutte le parti del mondo dove lui era passato. Parliamo di Cuba, di Argentina, in Italia talmente, anche perché loro in Italia sono molto famosi, Latino America, e questo è diventato un luogo adesso in questo momento curato da un gruppo di giovanissimi che si sono appassionati, e la biblioteca è stata inaugurata nel 2021, sta crescendo e crescerà ancora, e questa sì che sarà qualcosa che sarà, che si può assolutamente seguire in streaming. Le auguro un buon 2024, avremo modo di sentirci, e grazie della disponibilità. Grazie a voi. Domani con il Circo delle Pulci del professor Bustrich, con Sergio Bustrich, alle 7:59 minuti è terminato il primo approfondimento, la pubblicità è leggermente spostata per dare uno spazio divisibile per tre, è anche un po' un matematico chi fa regia in radio oltre che conduzione, se vogliamo, almeno se ha le mie capacità aritmetiche diventa improvvisamente un matematico con una precisione, perché essendo molto limitate a questo punto mi sento assolutamente un calcolatore perfetto. Cinematic Orchestra, The Awakening of a Woman. Una buona cosa. colazione a teatro con Teatro Ridotto Grazzalina della Rocca, che è direttrice artistica del palcoscenico di Lavino di Mezzo. Tra pochissimo si continuerà ovviamente con i nostri approfondimenti e presentazione, in questo caso per quanto riguarda il weekend. E quindi un buon ascolto con Radio Città Fujiko, una buona colazione, a tra poco.